Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Non vogliamo smettere di stupirvi neppure oggi. Questo ve lo premettiamo subito, anche perché in questa puntata vi racconteremo una storia di espatrio davvero fuori dall'ordinario, che ha come protagonista un giovane trentenne che ha trovato a Taiwan, Estremo Oriente, la sua strada professionale, lasciandosi alle spalle un percorso non facile per lui nella penisola. Pensate che ora a Taiwan è una vera e propria star, lui che ha saputo unire il mondo accademico con quello dello spettacolo televisivo. La sua storia ci fornirà lo spunto per aprire una finestra sulle opportunità ad est e ci aiuterà a capire chi possa davvero ambire a prendere la via della seta, professionalmente parlando. Oggi vogliamo essere anche molto pratici nel fornirvi indicazioni concrete su come espatriare. Lo faremo presentandovi un nuovo progetto online, senza dimenticare anche i suggerimenti concreti su come adattarsi a una vita all'estero, scritti da chi ci vive, oltre confine. Insomma, più che una puntata, una guida pratica all'espatrio, quella che vi regaliamo oggi. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini. L'Italia è notoriamente in ritardo rispetto agli altri paesi per numero e percentuale di laureati e fanalino di coda anche in Europa. Parole che riecheggiano quelle del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non possiamo rassegnarci a un numero così basso di laureati, ha detto Mattarella, osservando come se l'industria 4.0 ha bisogno di competenze tecniche sempre più qualificate, non possiamo permetterci che il nostro mercato sia carente proprio di laureati con elevate professionalità informatiche. Idee dalla Germania, dove l'ex manager di Volkswagen, Peter Arz, ideatore delle riforme del mercato del lavoro del governo Schröder, ha presentato a Berlino proposte contro la disoccupazione di lungo periodo e giovanile. Per combatterla, Arz ha proposto due strumenti, che ha chiamato diagnosi del talento e radar occupazionale. Da un lato si tratta di portare alla luce non solo le competenze evidenti, ma anche i talenti nascosti dei diretti interessati. Dall'altro, incrociare queste informazioni con un modello che ne evidenzi il potenziale occupazionale a livello locale. E in ogni caso, non c'è solo l'Europa a cui guardare per trovare la propria strada, le destinazioni possono essere anche estremamente insolite. Insegniamo i caratteri cinesi, quelli che vengono definiti ideogrammi, alla popolazione cinese. In cinese come introduci il tuo programma televisivo? Ok, 大家好, 欢迎收看我们国民党的新知. Riccardo Moratto, 31 anni, è un conduttore televisivo e docente universitario di stanza a Taiwan. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Migliora la percentuale dei giovani laureati italiani che risultano occupati entro 3 anni dal titolo, ma il nostro paese su questo fronte resta ancora molto indietro rispetto all'Europa. Lo scorso anno, secondo Eurostat, risultavano occupati il 57% delle persone under 35 che avevano terminato l'educazione terziaria, a fronte dell'80% nell'Unione Europea. Il dato è il penultimo a livello continentale, migliore solo di quello greco. In Germania, entro 3 anni dalla laurea, lavora il 92% delle persone. Non facciamo meglio per giovani inattivi. Oltre un quarto dei nostri 15-34 anni è senza lavoro e fuori dai percorsi educativi, secondo le tabelle Eurostat. Il dato italiano è il peggiore in Europa e sorpassa anche la media greca. La percentuale di NEET aumenta ancora se si guarda la fascia d'età 25-35 anni, quella nella quale in genere si è terminato il percorso formativo. In questa fascia sono al 31%. Intanto la percentuale più cospicua di giovani inattivi nella penisola nel 2015 si è registrata nella provincia sarda di Medio Campidano, 46%. Positiva invece la situazione a Bolzano, sono il 9%. A segnalarlo l'Osservatorio Consulenti del Lavoro. Una larga parte degli italiani, oltre 7 su 10, afferma di non aver percepito la ripresa economica. Secondo loro l'occupazione non è mai ripartita. Lo afferma il sondaggio condotto dall'Osservatorio sul Capitale Sociale Demoscop. Per il 65% degli intervistati, l'unica speranza di carriera per i giovani è all'estero. Gli Stati Uniti premiano l'oncologia italiana. 8 giovani connazionali, 6 donne e 2 uomini fanno parte della rosa dei 123 studiosi che hanno ricevuto un riconoscimento a Chicago al congresso dell'American Society of Clinical Oncology. Peccato che solo 2 di loro lavorino in Italia. Tra questi Emanuela Palmerini dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e Daniele Rossini dell'azienda ospedaliera di Pisa. È online Factor Impresa, il portale per chi vuole diventare imprenditore, curato da Invitalia, si rivolge a start-upper, studenti disoccupati e a chiunque voglia testare la propria idea di business. Info su www.factorimpresa.invitalia.it. Chiudiamo parlando di un progetto appena nato, una nuova piattaforma per cercare lavoro all'estero. Si chiama We Explore, la fondatrice Alessia Di Jacopo. È un portale multiservizi pensato per le persone che vogliono migliorare la propria situazione professionale, in particolare guardando all'estero. Abbiamo introdotto novità rispetto ai servizi di carriera tradizionali, che sono innanzitutto una parte di analisi di mercato, quindi capire se oltre le classiche mete Londra, Parigi, Berlino, quali sono in realtà i paesi dove le competenze della persona hanno più richieste e sono più spendibili. Una parte di assessment culturale, quindi capire se ci sono degli aspetti nel proprio comportamento da modificare, e soprattutto un contatto diretto con degli esperti locali per definire una sorta di piano di internazionalizzazione personale. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a Oriente. Siete pronti per esplorare opportunità professionali a Taiwan? Nome: Riccardo. Cognome: Moratto. Età: 31. Città di origine: Piombino. Studi: interpretariato di conferenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Taiwan. Perché? Per esplorare in prima persona la cultura che stavo studiando. Quale lavoro svolgi attualmente? Attualmente sono professore universitario, presentatore televisivo, scrittore e interprete. Dove? A Taiwan. Tornerai? Beh, mai dire mai. Al momento risiedo a Taiwan, dove lavoro come presentatore televisivo, professore universitario, interprete simultaneo e scrittore. Il tuo biglietto da visita sulle note dell'inno di Taiwan, Riccardo, non poteva essere più sorprendente. A Giovani Talenti, @radio24.it. Nato e cresciuto in Italia, come sei riuscito a diventare un personaggio in un paese culturalmente e geograficamente così lontano? Sinceramente la risposta è molto semplice, pur sembrando banale, ovvero essendo me stesso. Io sono una persona che non le manda mai a dire, le dice sempre in faccia, e questa cosa inizialmente era rimasta un po' invisa al pubblico orientale, e in un secondo momento poi è stato il mio punto di forza e quello che mi ha aiutato a raggiungere il successo. Guardando ai tuoi studi, quale specializzazione hai scelto e perché? Nel 2007 scelsi interpretariato di conferenza e decisi questa carriera, questo percorso formativo, perché a me è sempre piaciuto lavorare come ponte tra diverse culture, tra diverse persone, tra diverse lingue. Quindi ho ritenuto che questa tipologia di percorso formativo fosse quella più indicata. Il tuo voto da 1 a 10 alla nostra istruzione universitaria? 7, ma devo dire che è in linea con le istruzioni universitarie che troviamo negli altri paesi, né più né meno. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. L'anno di svolta per te è il 2008, ottieni una borsa di studio del National Science Council di Taiwan, vai a Taiwan, l'anno dopo andrai in Cina con una borsa del Ministero degli Affari Esteri, nel 2010 il salto definitivo, riparti per Taiwan e questa volta per fare cosa concretamente? Nel 2010 sono tornato a Taiwan per intraprendere un PhD, un dottorato in interpretariato di conferenza, che ho poi terminato nel 2013. Tra l'altro arrivi anche a lavorare come interprete ad alti livelli, è corretto? Sì, diciamo che sono stato molto fortunato, perché quando sono arrivato io a Taiwan non c'era nessun altro interprete simultaneo di cinese con italiano come lingua di lavoro, e quindi sono stato fortunato perché sono stato chiamato subito dal presidente e poi poco dopo dal vicepresidente. Vabbè, chiaro. Quindi è stato un bel, come dire, rompere il ghiaccio, ecco. Come sei arrivato a diventare professore universitario a Taiwan? Dopo il dottorato sono stato chiamato da 3 università proprio con questa specializzazione che avevo, italiano, cinese italiano, ma lavoravo anche con l'inglese come lingua di lavoro, e quindi mi hanno offerto un lavoro prima come lettore e poi dopo aver ottenuto il dottorato come professore. Tra l'altro sei anche scrittore, perché hai scritto e pubblicato dei libri, ma c'è anche un'altra tappa incredibile, quella forse più clamorosa. Tu, italiano di origine, approdi alla televisione di Taiwan come presentatore. Come ce l'hai fatta? Esatto, dunque innanzitutto devo dire che per me lavorare all'università o lavorare in televisione sono due facce della stessa medaglia, ovvero sono due platforms, due come dire, grandi piattaforme, ma con lo stesso scopo, ovvero quello di veicolare dei contenuti a un pubblico che appartiene a una cultura completamente diversa dalla mia. Come sono arrivato in televisione? Un'amica americana che lavorava nel teatro conosceva un produttore si stava cercando volti nuovi, persone che non avevano paura di dire le cose come stanno, persone con il coraggio da vendere, e in un qualche modo io ho risposto a tutti questi, come dire, caratteristiche. E adesso che programmi conduci? Soprattutto li conduci in cinese? In cinese, sì, in cinese mandarino. Adesso fondamentalmente sono dei programmi di varietà, alcuni talk show, e poi un programma molto molto carino in cui insegniamo i caratteri cinesi, quelli che vengono definiti ideogrammi, alla popolazione cinese, cioè in pratica uno straniero che insegna il cinese ai cinesi, quindi è stata una trovata molto molto carina da parte di un produttore, sta andando molto bene questo programma. In cinese come introduci il tuo programma televisivo? Ok, 大家好, 欢迎收看我们国民党的新知. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo su... Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presento Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Riccardo Morato, 31enne docente universitario e conduttore televisivo a Taiwan, solo per citare alcuni dei lavori che il nostro giovane connazionale svolge in Estremo Oriente. Una storia che ha davvero dell'incredibile, quella di Riccardo, che in pochi anni conquista una vasta notorietà. Tutto è nato dalla sua passione per la lingua e la cultura orientale, che l'hanno portato lontano. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Riccardo, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Intanto rispondo alla prima domanda: come vedo l'Italia dall'estero? La vedo meglio di quanto la possiamo vedere dall'interno, perché spesso quando siamo all'interno dei problemi è come se non riuscissimo a vedere una via d'uscita. Per quanto riguarda il problema principale dell'Italia, per me è il provincialismo, cioè il non riuscire spesso ad andare al di là del proprio naso. E ci raggiungerà in linea Sabrina Ardizzoni, docente di lingua e cultura cinese presso l'Università di Bologna. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Al di là di Riccardo Morato, lei ha avuto anche altri studenti che si sono affermati a così alto livello in Cina o a Taiwan o comunque nell'area della Greater China? Sicuramente ci sono diversi esempi, diverse persone che sono là, che vivono in Cina o appunto nella Greater China o anche in altri paesi asiatici, vedi anche India appunto. Loro sì, le opportunità oggi sono molte, ecco, sono molteplici e in diversi settori. Lei metteva in evidenza il fatto che Riccardo è arrivato ad insegnare all'università la lingua italiana. Beh, questo è una opportunità di lavoro che è piuttosto diffusa oggi, perché molte università cinesi richiedono appunto degli insegnanti madrelingua di italiano, ma anche insegnanti anche di altre lingue, ecco. Quindi diciamo che una specifica preparazione nella glottodidattica dell'italiano come lingua straniera o anche dell'inglese come lingua straniera è sicuramente una porta di accesso professionale, una prima porta di accesso professionale anche alla Cina. Ma poi ovviamente ce ne sono anche molte altre che sono legate a tutta quella che è la vita aziendale delle aziende italiane in Cina oppure cinesi che hanno a che fare con l'Italia. Quali sono le caratteristiche, la predisposizione da avere per poter andare in Estremo Oriente? Allora, la serietà professionale, la preparazione linguistica e culturale viene prima di tutto. Io sono molto convinta che ci siano questi due aspetti tecnici da portare avanti molto molto seriamente, che sono sia l'aspetto linguistico ma appunto anche l'aspetto culturale, quindi l'apprendimento della cultura contemporanea, cioè della complessità della contemporaneità cinese. Quindi noi abbiamo già parlato di Greater China, quindi abbiamo già introdotto queste diversità locali tra la Repubblica Popolare, Taiwan, Hong Kong. Prima ha citato anche le opportunità concrete a livello di borse di studio. Ne vogliamo dire qualcuna a cui magari possono fare riferimento anche dei giovani ascoltatori all'ascolto che hanno interessi nell'area? Io ho già citato quella del Ministero degli Esteri, che è una delle borse più più antiche, diciamo, quella di cui ho usufruito anch'io negli anni 90. Ecco. Dagli anni 2000, quindi negli ultimi, soprattutto dal 2005 in poi, 2010, si sono concretizzate queste opportunità che vengono proprio dalla Cina, da una struttura che si chiama Hanban, che è l'ufficio governativo preposto all'insegnamento del cinese all'estero nel mondo. Il quale mette a disposizione ogni anno numerosissime borse di studio che eroga attraverso le strutture che si chiamano Istituti Confucio, presenti oggi in 11 università italiane. Quindi questo, attraverso l'Istituto Confucio, i nostri studenti possono, per esempio noi a Bologna abbiamo la convenzione dell'Istituto Confucio con l'Università del Popolo di Pechino, quindi i nostri studenti, per esempio anche quest'estate, andranno con una borsa di studio di 5 settimane a studiare cinese all'Università del Popolo di Pechino, e poi ce ne sono altre che vengono distribuite nell'anno e che sono invece per periodi più lunghi. Parlare di Estremo Oriente è molto vago, ci sono Cina, c'è Taiwan, altri paesi che, come abbiamo detto prima, formano la Greater Chinese Area. Lei dove consiglia di puntare? Dappertutto. Risposta facile. Ogni luogo ha la propria specificità. Io consiglio sempre ai miei studenti, per esempio, di andare a studiare in Cina, Taiwan, Hong Kong, insomma compreso Taiwan, Hong Kong, ma anche nei posti piccoli, cioè di non disdegnare le università, per esempio, delle città considerate minori, no? Quindi va bene Pechino, Shanghai, Canton, Hong Kong, Taiwan, però non trascuriamo anche i centri meno conosciuti. E per chiudere la nostra domanda di rito a Riccardo Moratto, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Il consiglio è molto semplice ma molto importante. L'espatrio non deve essere mai visto come via d'uscita. Cioè, io vorrei sfatare un mito: io non sono andato via dall'Italia per cercare un qualcosa di meglio che non trovavo in Italia, e non sono neanche scappato da quello che è il mio paese, anzi più mi allontano più sento forte questa italianità dentro di me. Il motivo principale per cui una persona può e deve allontanarsi, anche se temporaneamente, dall'Italia, è quello di ampliare i propri orizzonti, la volontà di conoscere culture nuove all'interno delle quali potersi rispecchiare e di ritorno conoscere poi ancora meglio quella che è la propria cultura. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche oggi le ultime novità dall'Agenzia Europea per l'Impiego EURES. Ogni due settimane vi forniamo dritte utili per andare a lavorare in Europa. Serafino Perri di EURES Italia. Il 15 e 16 giugno prossimo avrà luogo all'Hotel Panorama di Cagliari in Sardegna l'evento European Recruiting Days, in cui saranno presenti i consulenti EURES e i paesi della Comunità Europea. Saranno organizzate in loco in diverse attività di workshop e di opportunità di contatto con operatori specialisti nel mercato del lavoro dei paesi di provenienza. Quindi parliamo di consulenti che lavorano nei servizi pubblici per l'impiego o in altre organizzazioni partner della rete EURES, del Lussemburgo, della Danimarca, della Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Svezia. Rispetto alle offerte lavorative che saranno promosse nel corso dell'evento, tra i profili professionali ricercati per i quali i laureati potranno candidarsi, segnaliamo dall'Olanda ingegneri meccanici ed elettrici o programmatori informatici, dalla Danimarca ingegneri, biotecnologi, farmacisti, informatici, medici, laureati in business e finanza e ricercatori. Dalla Germania abbiamo dottori, infermieri, ingegneri informatici, dal Belgio dentisti, dermatologi, laureati in scienze infermieristiche, infermieri geriatrici, endocrinologi, internisti, oncologi, specialisti in ortodonzia, pediatri, psichiatri e fisiatri. EURES Italia, che sarà ovviamente presente all'evento, provvederà comunque a pubblicizzare l'elenco delle offerte nei prossimi giorni sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro www.ampal.gov.it. La particolarità di tale evento sta nel fatto che potrà essere seguito anche online tramite l'ausilio di contatti chat e via Skype, che saranno allestiti nel corso delle giornate da parte di alcuni dei consulenti di EURES Italia. I laureati interessati a candidarsi alle offerte proposte, quindi pur non potendo raggiungere fisicamente la location SADA dove si svolgerà l'evento, potranno comunque mettersi in contatto tramite chat, comodamente da casa o da qualsiasi postazione internet, con i consulenti EURES dei paesi europei partecipanti. E l'accesso online all'evento sarà inizialmente possibile direttamente dal portale EURES www.eures.europa.eu, cliccando sul link chat con il consulente EURES. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi fare i puntati sull'iniziativa del noto dizionario online Babbla, e da qualche mese ha aperto un blog, Vivere all'estero, che si vuole proporre come comunità di riferimento per gli espatriati nel mondo. Tante informazioni utili, paese per paese, su come vivere e lavorare una volta sbarcati nella nuova terra promessa. Ce ne parla Benedetta Montagnoli, Product Manager a BAP.la. Il nostro blog nasce nel gennaio 2017 e l'idea ci è venuta in mente lo scorso anno, perché il nostro ufficio è pieno di redattori e stagisti che provengono da ogni angolo del mondo e che si occupano dei dizionari Babla. Abbiamo deciso di condividere tutte queste conoscenze pratiche che abbiamo acquisito qui vivendo all'estero e di dare dei consigli per rendere più semplice questo processo di trasferimento in un nuovo paese un po' per tutti, diciamo. Nel concreto, quali informazioni si trovano all'interno del vostro blog? Troviamo informazioni su come affrontare situazioni di vita quotidiana, ad esempio voglio andarmi a tagliare i capelli, questa è una situazione che è successa anche a me quando ero in Regno Unito, come dico non farmi la frangia, non sfilarmi i capelli o taglia poco, tagliami solo le punte, quindi queste cose che sui libri di scuola non si imparano. E quindi ogni articolo è anche corredato alla fine da una sezione con vocaboli ed espressioni utili che possono aiutare a sopravvivere in quella situazione, oppure cose che possono anche aiutare prima di trasferirsi all'estero, quindi come cerco uno stage in Germania, come devo redigere il mio curriculum, come presentarmi in una lettera, oppure una volta arrivata qua in Germania, aprire un conto corrente, quale conto posso scegliere. Quindi sono tutte situazioni di vita quotidiana in cui io posso applicare le conoscenze linguistiche che di solito a scuola non vengono insegnate perché ci focalizziamo più sulla grammatica. Il lavoro entra, se ho capito bene, nella preparazione del curriculum. Date anche dei consigli su come cercare lavoro o stage in questi paesi? Sì, diamo consigli su come cercare stage e abbiamo anche una piattaforma, sempre in questa sezione Vivere all'estero del sito, una piattaforma con offerte di stage in tutto il mondo in cui si possono appunto cercare degli stage. E invece nella parte linguistica del sito, quindi quella con dizionari, abbiamo anche dei frasari con quindi delle frasi che si possono, sono tradotte e ti aiutano a redigere il tuo curriculum. Per maggiori informazioni potete cliccare su it.baba.la/vivere-estero/. Un motivo per restare o tornare. Sono 165 i progetti degli Atenei finanziati con 146 milioni nell'ambito del piano triennale di sviluppo del sistema universitario, lo ha annunciato la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli. Nel complesso 70 progetti sono finalizzati ad azioni di orientamento degli studenti o internazionalizzazione dell'offerta formativa, 66 per la modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, 29 per la valorizzazione dei docenti e il reclutamento di giovani ricercatori. Quest'ultima misura consentirà di bandire 100 posti aggiuntivi di ricercatrici e ricercatori distribuiti in 12 Atenei. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo anni all'estero, under 40 stranieri a lavoro in Italia e giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh, Giovani Talenti è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.